Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. Vi mostrerò degli oggetti e voi mi mostrerete dove sono situati. Vi mostrerò degli oggetti e voi mi mostrerete dove sono situati. Montrez-moi où est l'enveloppe. Mostratemi dove si trova la busta. Mostratemi dove si trova la busta. Montrez-moi où est la clé. Mostratemi dove si trovano le chiavi. Mostratemi dove si trovano le chiavi. Montrez-moi où est le rasoir. Mostratemi dov'è il rasoio. Mostratemi dov'è il rasoio. Montrez-moi où est le verre. Mostratemi dov'è il bicchiere. Mostratemi dov'è il bicchiere. Montrez-moi où est le crayon. Mostratemi dov'è il pennarello. Mostratemi dov'è il pennarello. Montrez-moi où est le téléphone. Mostratemi dov'è il telefono. Mostratemi dov'è il telefono. Montrez-moi où est la montre. Mostratemi dov'è l'orologio. Mostratemi dov'è l'orologio. Montrez-moi où sont les ciseaux. Mostratemi dove sono le chiavi. Mostratemi dove sono le chiavi. Montrez-moi où est le peigne. Mostratemi dov'è il pettine. Mostratemi dov'è il pettine. Montrez-moi où sont les lunettes. Mostratemi dove sono gli occhiali. Mostratemi dove sono gli occhiali.